per ora commentiamo, diciamo, quelli che sono i testi non definitivi che sono stati resi pubblici, e li leggiamo con profonda preoccupazione perché testimoniano di un'involuzione della normativa italiana, non soltanto in materia di immigrazione, ma di una involuzione, come dire, di sistema rispetto all'ordinamento costituzionale, all'ordinamento internazionale. Devo dire che uno dei principali motivi di preoccupazione è appunto la abrogazione in toto della protezione, appunto, del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ciò che ci sembra, diciamo, particolarmente in conflitto, diciamo, con gli obblighi della Costituzione, gli articoli 2, gli articoli 10, diciamo, in particolar modo, e con gli obblighi internazionali che l'Italia ha, avendo, appunto, ratificato diverse, appunto, convenzioni e trattati internazionali. Ma anche, diciamo, è particolarmente preoccupante la previsione di fatto della cancellazione del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, cioè la cancellazione dello SPRAR, che di fatto verrebbe limitata esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori, così cancellandosi una delle migliori, la migliore esperienza di integrazione in Italia dei richiedenti asilo, il che è incredibile, perché può essere letto, appunto, esclusivamente in chiave ideologica una previsione, appunto, di questa natura. Cioè, anziché porre un rimedio al proliferare dei centri di accoglienza straordinari, che hanno anche dei controlli di spesa, diciamo, molto inferiori rispetto a quello, appunto, che avviene nello SPRAR, si cancella, diciamo, completamente proprio, appunto, lo SPRAR per i richiedenti asilo, così evidentemente rendendosi anche molto più difficile l'integrazione dei richiedenti asilo nell'ambito del contesto sociale, territoriale, appunto, delle comunità di accoglienza. È ugualmente pericolosa, diciamo, la previsione, diciamo, che vorrebbe, appunto, prolungare a 180 giorni il trattenimento, appunto, delle persone all'interno dei centri di detenzione amministrativa, centri di detenzione che Argi ha sempre pubblicamente criticato, e così come la previsione, diciamo, di voler in qualche misura legittimare, appunto, l'esistenza degli hotspot quali luoghi di identificazione, diciamo, degli individui, delle persone straniere in mancanza di, e quindi consentire il trattenimento degli stranieri all'interno, appunto, di queste strutture in mancanza delle garanzie primarie che vengono previste dall'articolo 13 della Costituzione. Come dire, ovviamente il commento potrebbe essere, diciamo, più approfondito, diciamo, e più ampio. Quello che sembra effettivamente, appunto, emergere dalla lettura, appunto, di provvedimenti del genere, che sembrano non tenere completamente, diciamo, in considerazione gli obblighi costituzionali del legislatore italiano, e che si voglia operare una forzatura proprio del sistema istituzionale, che parte, diciamo, dalla condizione giuridica dello straniero, ma che evidentemente involge la società nel suo complesso. E di questo abbiamo avuto nei mesi scorsi, con alcune vicende, una lampante dimostrazione, perché i casi, diciamo, appunto, sia di luglio sia di agosto, delle navi 18 della Guardia Costiera, ci parlano di questo, ci parlano di una involuzione tentata del sistema istituzionale e costituzionale italiano. Lo ricordava poco fa, e non è il solo, insomma, a ravvisare profili di incostituzionalità, perlomeno, insomma, nelle ipotesi di questo decreto. Quindi, come dire, questa potrebbe essere un'arma per fermarlo? Ma io credo che il Presidente della Repubblica, rispetto a dei profili di manifesta illegittimità costituzionale, abbia il dovere, diciamo, di sottoporre, appunto, l'attenzione del legislatore, appunto, quei profili, e quindi, diciamo, di non sottoscrivere, non promulgare un decreto legge, diciamo, di tal fatta. Non si comprende in realtà, diciamo, nemmeno quali siano le questioni di necessità ed urgenza che portano, appunto, il governo a voler fare un decreto legge piuttosto che aprire una discussione, diciamo, pubblica nel paese, e quindi poi anche, appunto, in Parlamento su queste vicende. È evidente che se un intervento del Presidente della Repubblica non dovesse, appunto, arrivare, e se il Parlamento poi dovesse decidere di convertire, diciamo, appunto, quel decreto legge in legge, non residuerebbero, diciamo, che le iniziative volte a chiamare in causa la magistratura, anche costituzionale, per ripristinare quello che è un ordine sociale e civile che si vuole effettivamente violare.